Europa 24. E un saluto anche da Anna Migliorati. A rischio anche in Europa le forniture di gas, il braccio di ferro tra Kiev e Mosca che ha portato all'ultimatum sulle forniture da parte di Gazprom potrebbe avere ripercussioni anche per altri paesi, così dice Bruxelles. Se Kiev userà le sue riserve di gas per far fronte alla chiusura dei rubinetti da parte di Mosca, per l'Europa sarà un problema. È il commissario all'energia Oettinger a intervenire nella delicata situazione che si è creata da questa mattina, da quando è scaduto l'ultimatum russo verso l'Ucraina per il mancato saldo del debito sul gas. Dopo le 8, Gazprom ha introdotto il prepagamento. In sostanza, Kiev deve pagare in anticipo per avere il gas. Nei fatti, la Russia ha interrotto il flusso. A questo punto, Kiev potrebbe dover ricorrere alle sue scorte, che in genere assicurano il transito del gas russo verso l'Europa. Il problema è reale, ma è lo stesso Oettinger a confidare ancora in una soluzione, anche se alla scadenza dell'ultimatum si è scatenata una guerra fatta di cause e ricorsi. Dopo aver modificato le procedure, Gazprom ha anche avviato una causa contro la società ucraina di gas presso la Corte arbitrale di Stoccolma per recuperare tutto il debito che pende su Kiev. L'Ucraina Naftogaz ha risposto presentando ricorso alla stessa Corte per riavere circa 6 miliardi di dollari dal colosso russo. Secondo Kiev si tratta di soldi versati indebitamente, perché il prezzo del gas era eccessivo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, sulla delicata situazione che si è venuta a creare tra Russia, Ucraina e Unione Europea dopo lo scadere dell'ultimatum di Mosca, Valeria De Rosa ha intervistato Michele Polo, direttore del centro di ricerca IEFE, che si occupa proprio di energia e economia ambientale. Quello che Gazprom ha detto è: noi con Ucraina non abbiamo raggiunto un accordo e quindi, in assenza di un accordo, o ci pagano il gas in anticipo o non glielo forniamo. E fin qua è una questione ovviamente seria, ma interna all'Ucraina. La seconda cosa che ha detto Gazprom però è: se ci accorgiamo che l'Ucraina in realtà devia parte del gas che dovrebbe andare in Europa al suo interno, cioè diciamo così, invece che da paese di transito va a utilizzare il gas che è destinato altrove, allora blocchiamo proprio le forniture. Allora lì sono guai ovviamente per i paesi che importano dalla Russia, quindi Germania, Italia, Austria, eccetera. Lei ritiene verosimile che Mosca possa bloccare le forniture? È già successo nel 2006 e nel 2009, fra l'altro in periodi anche più difficili dal punto di vista climatico e quindi di consumo del gas, quindi sicuramente sì. Questa è una vicenda che ha poco a che fare con il gas in sé e ha molto a che fare con i risvolti geopolitici. Sì, direi di sì. In questo, rispetto alle due crisi precedenti, l'Europa e la Commissione europea sono poi anche maggiormente coinvolte come attore politico nella questione di politica internazionale. Russia da una parte e Unione europea dall'altra, con l'Ucraina che vorrebbe avvicinarci sia all'Unione europea. Quindi questo complica ulteriormente e restringe gli strumenti che può usare l'Unione europea. Torna a scendere intanto nell'eurozona l'inflazione. A maggio su base annua è stata pari allo 0,5% contro lo 0,7% di aprile. Il tasso di inflazione mensile a maggio è stato del meno 0,1%, dice Eurostat, confermando di fatto la sua stima flash. Eurostat che ha pubblicato oggi anche i dati sulla tassazione nei paesi europei. L'Italia arriva seconda nella classifica sull'imposizione fiscale stilata dall'Eurostat, prima di noi solo l'Ungheria. Tra il 2011 e il 2012 la tassazione rispetto al PIL è passata dal 42,4 al 44%, un livello superiore di quasi 5 punti alla media europea. A fotografare la situazione dei 28 è l'Eurostat, secondo cui nei paesi europei le tasse sul lavoro sono state la maggiore fonte di gettito nel 2012. A pagare di più i cittadini di Svezia, Olanda e Austria. Sullo stesso fronte i paesi più di fila sono Bulgaria, Cipro e Regno Unito. Incidono meno sul gettito le tasse sul capitale, che in Italia e in Francia sono le più basse d'Europa, superate solo dalla Bulgaria. Tra quelle che incidono meno, le tasse sul capitale. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine la Commissione europea ha annunciato oggi che le proprie decisioni sul pacchetto infrazioni sono state rinviate dal 19 giugno al 10 luglio. Tra queste queste decisioni. Ci sarebbe anche la richiesta formale all'Italia di recuperare presso i produttori di latte le famose multe per 1,39 miliardi di euro dovute al superamento delle quote di produzione assegnate tra il 95 e il 2009. Noi per ora però ci fermiamo qui. L'Europa vi aspetta a Radio 24, come sempre, a effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.